Dame Elizabeth Murdoch, 102 anni appunto, nella grande villa della tenuta di Cruden Farm, tenuta da 50 km a sud di Melbourne in Australia, glielo dissi ripetutamente che non doveva farlo, perché quello non era il giornalismo che aveva ereditato dal padre, è un'infernale macchina del fango che prima o poi ti porta nel fango. Ah, la saggezza degli anziani. Intanto, insomma, la vicenda Murdoch ancora assume tanti contorni. Per esempio, Cristina Nadotti su Repubblica racconta, ci sono degli episodi che stanno venendo fuori davvero incredibili, misoginia, notizie costruite e soprusi, così Rebecca Brooks ci faceva dare il peggio ai lettori. Ora arrivano le confessioni, in questo caso la confessione di Michael Taggart, che è andato via dai giornali e poi ha raccontato degli episodi incredibili. Per esempio, storie dell'incredibile, un giornalista costretto ad andare in giro per Londra vestito da Harry Potter per dare credito alla Pottermania, cioè inventavano le notizie costruite. Così prendevano dei giornalisti, dicevano vai in giro vestito da Harry Potter, facevano due foto, dice vedete c'è la mania a Londra di andare in giro vestiti da Harry Potter. E quando lui si rifiutò, questo giornalista, non voleva farlo più, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, fu obbligato a indossare i panni del maghetto anche in redazione. Ma che è? Cioè, voglio dire, per punizione doveva vestirsi da maghetto, vabbè. Fa ridere tanto quanto la notizia che purtroppo drammatica, c'è una guerra ma viene dalla Libia, quasi viene da ridere, ha preso in giro tutto il mondo e ora Sarkozy dice forse Gheddafi può anche rimanere, basta che non stia al potere, non faccia più politica, ma Gheddafi in Libia può rimanere. Già, che fine ha fatto Gheddafi? Ma non se ne sa più niente. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci alle 8:21 minuti. Saluto e ritroviamo con piacere il procuratore capo di Napoli, Giovanni Domenico Lepore. Procuratore, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan. Senta, il momento è importante sicuramente e le faccio fare anche qualche dichiarazione dal punto di vista della giornata politica avvenuta ieri. L'arresto dell'onorevole Papa, il sì da parte della Camera per l'inchiesta cosiddetta P4 della Procura di Napoli. Intanto lei è stupito del sì della Camera, è la prima volta nella storia per fatti non di sangue. Sinceramente non stupito non tanto, perché quasi ce l'aspettavamo per il tipo di reati, per il tempo, dato che per la prima volta si parlava da parte del ministro Alfano del nuovo partito degli onesti eccetera, quindi a conti fatti volendo fare una cosa del genere c'era una l'idea che forse sarebbe stata accolta almeno una delle tante domande. Però il PDL proprio diceva partito degli onesti sì, ma non delle manette. Vabbè, e non delle manette, ma molte volte noi abbiamo dovuto chiedere al Parlamento, in genere non sono mai state accolte. Si è aperta una porta, ma non credo che sia aperta una porta, perché vanno valutati casi per caso. Quindi naturalmente non è detto che sempre ora verranno concessi oppure non verranno negati. Però diciamo il fatto è un fatto storico, questo lo registra anche lei da magistrato. E questo sì, in effetti è un avvenimento molto positivo anche nei confronti della popolazione, perché in genere il cittadino pensava no, era una sono delle persone immuni da tutto, mentre i cittadini comuni non hanno questo privilegio. Lei infatti di recente aveva detto la sensazione che spesso i politici si sentono intoccabili dalle inchieste della magistratura. Conferma sì, oppure, visto il voto di ieri? In certo qual senso sì, perché io devo riconoscere che automaticamente quando si toccano i politici c'è appunto una reazione comune, concorde di tutte le correnti, dove ci si cerca di strumentalizzare la magistratura e i magistrati, e si è ripetuto il caso anche nel caso Palma, perché io ho sentito la difesa del dottor Papa delle cose veramente un po' assurde che non corrispondono alla verità. Per esempio che noi abbiamo rifiutato di voler sentire il dottor Papa. Il dottor Papa non ha mai chiesto a noi di essere sentito, ha fatto un esposto denunzia che voleva essere sentita non da noi come persona indagata, ma dalle procure generali come parte lesa. Molte volte ecco, si parla, si sono fatte anche delle considerazioni, ho sentito qualcuno come dire, come affidiamo il dottor Papa al dottor Voodoo, che ha sempre fatto dei processi che non hanno portato a nulla. Questa per esempio è un'altra falsità, perché la carriera del dottor Voodoo, non è che voglio fare il difensore del dottor, ma per, almeno per ristabilire la verità, non è, è appunto negativo, anzi è tutt'altro che negativo, è molto positivo per i risultati che ha avuto in tutte le varie indagini. Ci sono stati però, è accusato di aver fatto dei processi mediatici che poi non sono portati, cioè di, che hanno avuto tanto scalpore, tanta risonanza mediatica, ma poi non si sono concretizzati. Ma non è tutti quanti, perché ci sono molti processi, cominciando per esempio quelli istruiti nei confronti di Corona, che Corona è stato condannato più volte, altri processi che sono partiti proprio dal dottor Voodoo, perché è una persona seria che naturalmente procede, e poi non, sinceramente non vedo, ma a differenza di molti altri colleghi, non fa intervista, niente, sì, e poi hanno lo sviluppo mediatico, quello non dipende da lui. Sì, non dipende da lui. Senta, secondo lei c'è un clima da manette, come qualcuno dice, oppure un clima da ritorno alle monetine, cioè a Tangentopoli, lei respira questo clima? No, no, onestamente io non respiro ancora questo clima. Il fatto che ci sono dei fatti gravi molte volte che costituiscono reato e che naturalmente dobbiamo procedere in una certa maniera, ma non perseguendo o colpendo i vari politici o amministratori pubblici. C'è una grande differenza tra la Tangentopoli e questi casi che noi stiamo trattando in questo periodo. Senta, mi può dare una conferma su quello che scrive oggi il Corriere, che Google consegnerà ai magistrati, cioè a voi, la Procura di Napoli, l'archivio segreto di Bisignani con 5.000 file criptati nell'inchiesta P4? Questo c'è scritto. Io non sono stato contattato da nessuno, quindi non nemmeno, ma non credo nemmeno i miei colleghi non me l'avrebbero detto, quindi non so se Google ci darà anche questo strumento investigativo. A proposito di questione mediatica, lei ha fatto un'intervista ieri, è andata un po' in sordina, ma secondo me dice una cosa interessante, dicendo chi pubblica le intercettazioni che non vanno pubblicate, i mezzi di informazione andrebbero sanzionati duramente, anche magari, che ne so, chiusi per un mese. Conferma, cioè così, un giornale... Confermo, questa è una mia vecchia teoria che naturalmente non sarà mai attuata. E perché? Perché naturalmente viene tirato in ballo il diritto di cronaca e il diritto di informazione. In effetti io dico questo, quello che naturalmente la gente non vuole, cominciando da noi magistrati, è che le intercettazioni telefoniche vengano pubblicate, noi le dobbiamo depositare per legge quando dobbiamo, presso un giudice al quale ricorre l'imputato, l'indagato, e quindi siamo costretti a depositarle. Il problema maggiore non è l'intercettazione in sé, ma la pubblicazione e il contenuto dell'intercettazione. Allora, se vogliamo veramente fare qualcosa di serio, dobbiamo cambiare la sanzione, la norma del divieto della pubblicazione delle intercettazioni. Cioè lei cosa penserebbe? Un giornale che pubblica delle intercettazioni? Allora, che si dovrebbe fare? Niente. Allora, se un giornale pubblica una intercettazione che non dovrebbe invece di essere sanzionata con una multa, con una sanzione pecuniaria, una chiusura dai 5, 10, 15 giorni a seconda della gravità del fatto, una sanzione ammessa di chiusura del giornale, cioè, che è una cosa molto, molto seria, no? Immaginiamo che il Sole 24 Ore non possa uscire per 10 giorni per aver fatto questo, è un colpo molto duro per... durissimo, che naturalmente il Sole 24 Ore non pubblicherà più nessuna intercettazione. Lei dice serve per mettere in riga, no? Bisogna regolamentare meglio la pubblicazione degli atti processuali, questo sicuramente, ma non eliminare le intercettazioni che oggi come oggi sono sempre il mezzo di prova più importante che abbiamo. Senta, un'ultima cosa, non so se vuoi commentare su questo, escono adesso le agenzie la prima notte dell'onorevole Papa, ma è vero che voleva andare al carcere di Orvieto a costituirsi, ma poi ha contattato i magistrati che hanno detto no, devi venire a Poggio Reale. In effetti qua non è l'esecuzione di una pena, è un arresto a seguito di custodia cautelare, è necessario procedere ad interrogatori di garanzia e altre cose. Allora il GIP ha ritenuto che dovendo fare questi adempimenti deve essere tradotto a Napoli per evitare passaggio, viaggi a destra e a sinistra o di magistrati o del detenuto, perché pure andando a Orvieto può posizione a Napoli. Insomma, doveva venire, doveva essere vicino fisicamente per almeno per i primi tempi, poi anche per avere i contatti con gli avvocati e così via, di sé, con la famiglia e così via. Intanto l'ultima cosa, lei mi conferma comunque, l'onorevole Papa non ha mai chiesto di essere interrogato da voi, ma mai chiesto, noi abbiamo l'altra parte era anche se voleva presentarsi, poteva presentarsi in qualsiasi momento. Questa è una cosa che veramente mi è andata un po' ai nervi, perché diciamo, si è fatta una difesa su quello, ho sentito anche qualche difensore appunto del parlamentare dell'onorevole che si è riferito unicamente alla sua denuncia, senza controllare quello che era stato scritto. Intanto io la ringrazio, procuratore, buona giornata ovviamente. Grazie a lei, buongiorno. Grazie, il procuratore capo di Napoli, Giovan Domenico Lepore. E, insomma, ci fermiamo, ma rimaniamo su questo tema, perché la domanda che vi poniamo nel sondaggio è strettamente politica, parliamo dei riflessi politici, cioè c'è un rischio davvero di questo clima di monetine evocato da Antonio Di Pietro, c'è il rischio di Tangentopoli, come scrive qualche giornale, attenzione, tremate le manette sono tornate, oggi titola il giornale in prima pagina, c'è questo clima anche di antipolitica. 24 mattino. Siamo alle 8:35 minuti qui a chiederci allora nel nostro sondaggio, secondo voi c'è un clima del 1992, quello da lancio di monetine evocato da Antonio Di Pietro ieri in un'intervista all'Unità? Ne parliamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Lo facciamo con il sottosegretario agli esteri, l'onorevole Stefania Craxi, che saluto, ben ritrovata, onorevole Craxi. Ben trovati a voi, grazie. Saluto anche il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Donadi, onorevole Donadi, buongiorno e anche a lei. Abbiamo ingaggiato qui al volo, sapete che a me fa piacere quando può, quando c'è, qui il nostro Oscar Giannino. Oscar, eccoci qua, buongiorno. Un saluto e un saluto a Stefania Craxi e a Donadi. Allora, l'83% dei nostri ascoltatori, Oscar, dice sì. C'è quel clima lì da lancio di monete. D'altronde l'abbiamo colto dalle telefonate questi giorni, l'esasperazione, la gente ha torto, ha ragione, però questo è il dato di fatto, l'esasperazione della gente. Oggi Giuliano Ferrara dice è stato dato in pasto all'opinione pubblica un quacquaracqua qualunque, no? Alfonso Papa per placare l'ira della popolazione. Non so quanto l'onorevole Papa possa essere d'accordo con questa definizione. Comunque il fatto sta che oggi quotidiani di ordine diverso, dal Messaggero, titolo svolta senza ritorno, Corriere della Sera, La Febbre Alta, Repubblica, lo strappo finale, e l'opinione più o meno convergente nella stampa. Il quacquaracqua qualunque. Quacquaracqua sacrificale. Sacrificale è un pochino il capro espiatorio, però quacquaracqua è quacquaracqua. Certo, no, ma infatti lui dice, lui lo definisce una persona, certo, non... capitata lì in passaggio, un ex magistrato capitato in gita premio alla Camera, certo, uno. Vabbè, insomma, queste però sono le accuse. No, sono queste. Diciamo che io non so se veramente siamo alle monetine, perché io non credo che la storia si ripeta sempre uguale, però certamente c'è un elemento di divergenza molto forte, perché la protesta che si scatenò contro Bettino Craxi era la protesta diretta a un leader che aveva cambiato, innervato di sé un lungo pezzo la storia italiana e contro il quale si incardinava una serie di odi, cioè che erano per tutta la sua politica. Qua siamo, secondo me, a una protesta diffusissima e radicata contro episodi diffusi di malaffare, eccetera. Non sono paragonabili a quello. Se fosse stato qualcosa per Silvio Berlusconi, allora io potrei dire se c'è un paragone con Bettino Craxi. Bettino Craxi sta su un altro livello, questa è la mia opinione personale. Quanto alle monetine, forse il 20% che dice no è perché si candiderebbe a raccoglierla perché non ce l'ha più in tasca. Ecco, sì, infatti qualcuno dice allora eravamo ricchi, lanciavamo le monete, adesso siamo poveri, e mi fermo qui, lanciamo qualcos'altro, ma vorrei chiedere appunto ai nostri ospiti anche politici. Stefania Craxi, intanto lei quando sente parlare di lancio di monetine, che cosa le suscita tutto questo? Beh, intanto mi vengono i brividi. Certamente alcune analogie ci sono, c'è lo stesso comportamento dei PM fuori controllo con la sistematica violazione del segreto istruttorio e la disponibilità della stampa che sembrano tante tricotose, di fatto i PM hanno esautorato la magistratura giudicante. Il dottor Saverio Borrelli, degno di una commissione di disciplina invece onoratissimo, diceva il bucato lo fanno le procure, ma i magistrati non devono moralizzare il paese, devono, diciamo, devono perseguire il fatto reato, così dice la Costituzione. Dopodiché naturalmente è diverso il contesto, perché allora Mani Pulite, che fu l'assalto della magistratura, un sistema di finanziamento della politica chiaramente illecito, fu di natura politica l'assalto, di natura politica le conseguenze, tra le conseguenze la rottura del sistema di selezione della classe dirigente, che ha provocato oggi un'intera classe dirigente inadeguata. Si parla oggi di malversazione per arricchimento personale. Guardi, mi sento inadeguata anch'io, quindi lo dico con grande... E sentiamo l'onorevole Donadi. Onorevole, lei questa interpretazione del dire è stato sacrificato l'onorevole Papa in pasto anche alla pressione mediatico popolare da parte della gente esasperata, è un'interpretazione che rigetta o può leggere come probabile, plausibile? Vi segnalo però un problema di regia, io non ho sentito una parola di quello che ha detto. Adesso miglioriamo perfetto, l'audio. Perfetto. Però dice le fa venire i brividi, questo è il sunto, le fa venire intanto i brividi questa idea di lancio di monetine che ha evocato il suo leader di partito, Antonio Di Pietro. Ma guardi, il lancio delle monetine, come ha fatto in sé, può far venire i brividi anche a me, e non è che Di Pietro lo auspicava o, come dire, lo ricordava con piacevole nostalgia, era semplicemente una immagine per ricordare un momento storico che Di Pietro vede oggi per alcuni motivi alle porte, ma io poi condivido, come spesso mi capita, completamente quello che diceva Oscar Giannino, nel senso che sì, ci sono delle similitudini, ma ci sono anche delle straordinarie diversità. Io credo che la storia anche questa volta non si ripeterà secondo schemi precedenti, ma c'è un tratto che in qualche modo è di assoluta continuità, e cioè ancora oggi di nuovo, come nel 92-93, c'è un paese che ha la consapevolezza di una classe dirigente nella sua complessità, poi evidentemente con tante e illustri eccezioni sia da una parte che dall'altra, ma di una classe politica che nella sua complessità non è all'altezza dei compiti cui è chiamato il paese in questo momento di straordinaria difficoltà, con una corruzione, con un malaffare, con una perdita di valori etici, con una indifferenza per l'illegalità, per pratiche clientelari, quando non di vera e propria corruzione, che se c'è una differenza rispetto al 92, che ormai si è, come dice Di Pietro, ingegnerizzata, oggi cioè è peggio. Non c'è più il pacchettino con le mazzette dentro, c'è la consulenza, c'è il contratto intestato a qualcun altro, come si trova. Sì, non c'è più la busta, la mazzetta data nella busta. In qualche modo si è legalizzata la corruzione, ma la corruzione è oggi, se possibile, ancora più pervasiva e devastante che nel 92, ma ce lo ricorda, non lo dico io, ce lo ricorda ogni anno la Corte dei Conti. Tra l'altro, Oscar Giannino, io non so se si coglie il momento anche storico dal punto di vista di quello che è successo ieri alla Camera, cioè è la prima volta nella storia della Repubblica che per fatti non di sangue, perché in passato era stato dato per fatti di sangue l'autorizzazione all'arresto votata dalla Camera, che è stata votato un sì all'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Papa, che ha passato la prima notte al carcere di Poggio Reale a Napoli. Cioè è un fatto effettivamente storico, clamoroso dal punto di vista anche in Tangentopoli erano tutte respinte le richieste di arresto, anche in quel clima lì. Perché questa volta sì? Perché questa spiegazione è politica interna alla maggioranza, perché la Lega ma è dichiarata la faccenda, la Lega è di Maroni e la Lega non di Boss, non so di chi sia, però è la Lega che non tiene più la coesione a una linea reiterata di difese, che però in questo caso bisogna dire più che parlamentari random ha riguardato evidentemente il Presidente del Consiglio, cioè si colpisce, io non userei mai per nessuno il termine qua, ma per capirci, si colpisce il qua sacrificale, se vogliamo usare le parole di Giuliano Ferrara, per far capire a Berlusconi da parte dei leghisti che hanno fatto vedere io voto sì, e ci sono oggi le fotografie, quindi non è che non è un'illazione, è così, si fa capire al Presidente del Consiglio, con noi stai chiudendo la partita, e la stai chiudendo male, perché noi approfittiamo a questo punto di ciò che avviene in aula per farti capire su un punto delicato come le custodie cautelari parlamentari che non c'è più strada comune. A questo proposito, Stefania Craxi, due domande. C'è un problema con la Lega? È la prima domanda. E il secondo, condivide che è un voto, come avrebbe detto Berlusconi, cioè vogliono colpire me in realtà colpendo Papa? Allora, qualcuno ieri giustamente in Parlamento ha commentato: si è consumato il congresso della Lega sulla pelle di un nostro deputato. Concordo pienamente con questa affermazione. L'altra questione, è evidente che il colpo arriva non solo a un Parlamento che dà una risposta imbelle alla campagna mediatica forsennata contro una manovra finanziaria che non prevede alcun taglio dei costi della politica, e quindi come nel 93 si è arreso alla prepotenza del cuore rinunciando al primato della politica, ma certamente il colpo è arrivato dritto al Presidente del Consiglio. È arrivato al Presidente del Consiglio, cioè le dice è un modo per colpire, quindi la reazione attribuita a Berlusconi sui retroscena oggi della politica dei giornali, a dire vogliono colpire me, questi parlamentari che hanno votato sono dei pazzi, in realtà c'è il solito conflitto magistratura politica, è così, lei condivide? Il problema è che il suo alleato di sempre, ovvero Bossi, ha perso anche lui nel congresso della Lega che si è tenuto ieri. Beh, interessante. Donadi, è così effettivamente? Cioè dice Stefania Craxi, si è consumato il congresso della Lega con il passaggio di fatto da Bossi a Maroni della Lega alle spese di un nostro parlamentare. Ma guardi, non lo so, questo lo sa sicuramente l'onorevole Craxi molto meglio di me, visto che sono tra di loro amici ed alleati. Quello che invece un po', devo dire, anche mi irrita è il fatto, devo dirlo anche nelle parole dell'onorevole Craxi, cioè che in mezzo a tutto questo, a queste loro polemiche, a queste loro divisioni, la decisione di ieri del Parlamento, se sia stata giusta o corretta, se l'articolo 68 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione del Parlamento per procedere con misure cautelari, proprio per verificare e evitare che la magistratura proceda nei confronti di un singolo parlamentare non per ragioni di giustizia, ma per ragioni di pregiudizio, per ragioni di persecuzione politica. Ebbene, ieri, dopo una lunga e approfondita discussione, ma soprattutto grazie all'attività svolta in giunta, dove le 15.000 pagine del dossier sono state attentamente esaminate, si è verificato che le difese, diciamo così, dell'onorevole Papa in punto mi stanno perseguitando erano assolutamente inconsistenti, sì. Che al contrario era assolutamente solido e direi sovrabbondante il quadro delle indagini messe insieme dalla, sì, Procura di Napoli, che vi era la prova, come dire, in qualche modo in re ipsa, no? La prova in se stessa nell'indagine, che non vi era nulla di persecutorio nei confronti di Papa, perché all'inizio di questa indagine nemmeno i magistrati avevano la più pallida idea che ci fosse di mezzo Papa. Sì, però la questione da cui voglio ripartire dopo il traffico, aspetti Donadi, perché devo ripartire dopo il traffico, la questione è che magari casi simili in cui c'erano qualcosa di concreto c'erano anche in passato, ma la Camera, il Senato era respinto nel caso di Tedesco, ha sempre respinto, stavolta no, ma nel caso di Tedesco, Partito Democratico al Senato sì, chissà perché, lo chiederò a Oscar Giannino dopo il traffico. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, allora c'è un clima da lancio di monetine. Chiediamo, prima di far concludere l'onorevole Donadi, vorrei capire, Oscar Giannino, al Senato invece, dove il senatore Tedesco, Partito Democratico, per il quale ha richiesto gli arresti domiciliari e per il quale il Partito Democratico ha detto votiamo sì agli arresti domiciliari, cioè il suo stesso partito, e lui ha detto non c'è fumus persecuzione, datemi gli arresti domiciliari, è stato salvato, diciamo. Ma però la vicenda è, se siamo osservatori con un minimo di esperienza, riconducibile alla stessa ragione di ciò che è avvenuto alla Camera sempre dei Deputati. Sempre per la Lega. Ma non so, diciamo, sempre, è evidente che è un autocollasso della maggioranza quello che è avvenuto ieri, ed è avvenuto appunto su un punto delicatissimo, senza precedenti, come la custodia cautelare dei parlamentari, cioè sul punto che racchiude per sintesi simbolica 17 anni di lotta tra Procure da una parte e il PDL e il suo capo, innanzitutto, prima che dei tanti parlamentari coinvolti nell'indagine, il suo capo, cioè è un punto assolutamente centrale, ed è un punto centrale che travalica persino il fatto che per questo genere di reati la custodia cautelare dalla Camera non era mai stata concessa. Ma io penso che la stessa vicenda del Senato e del senatore Tedesco sia esattamente inquadrabile in un autocollasso della maggioranza. Osvaldo Napoli del Popolo della Libertà: adesso finiranno in galera tutti. Si dice che si sia visto un Marco Milanese, onorevole, pallido dopo il voto di Papa, perché adesso chiaramente insomma qualcuno dice aperta una crepa nella diga, vedremo. Però in realtà prima il procuratore capo di Napoli, Lepore, che avevamo ospite, ha detto ogni caso è diverso. Ovviamente non è che vuol dire siccome prima respingevano tutti adesso c'è stato un diverso, sì, ma siccome sì, ieri la tendenza è politica, la tendenza della maggioranza sarà a questo punto di fare la conta sul collaboratore più stretto del ministro Giulio Tremonti. E questo da parte della Lega, inutile nascondercelo, carica di un ulteriore significato, perché la base della Lega diceva basta con la difesa di Berlusconi rispetto a quello che ci dà il governo. L'onorevole Tremonti ha un rapporto storicamente di tipo completamente diverso e sarà quindi ancora più politicamente significativo vedere come nella maggioranza ci si regolerà. Allora 800 24 00 24, Benedetto da Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno anche a Giannino, uno dei miei preferiti. Grazie, ma andiamo al punto. Certo, parlavamo dell'opportunità delle monetine. Io vorrei fare una riflessione sull'opportunità delle monetine. Beh, opportunità, no, del rischio al limite. Del rischio, ma io direi opportunità. Lei, e adesso le spiego perché parlo di opportunità e non di rischio. Noi abbiamo un buco di 1.900 miliardi. 1.900 miliardi che sono stati causati nella gestione del denaro pubblico e non certo dagli italiani, a cui si attribuisce la colpa dicendo che sono stati che hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. Questa qui è una vergogna. 1.900 miliardi, vorrei ricordare, sono il reddito di una vita intera di lavoro, 35 anni, di 4 milioni di persone. E quindi vabbè, questo è il, diciamo, il substrato. Una ulteriore riflessione. Secondo la Corte dei Conti il valore della corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi. Va bene, Benedetto, però venga al punto. Questi sono dati importanti che vengono snocciolati sempre. Quindi, cosa le fa dire? La prego di farmi finire. Sì. C'è Tremonti che ci sta massacrando per tirarne fuori 47 in 4 anni e questi ne rubano 60 ogni anno. Allora, di fronte a questa cosa, sono opportune le monetine o è opportuno qualcosa di più? Oh, lei dice tutto questo preambolo per dire sono opportune le monetine. Stefania Craxi, ha sentito il clima, guardi, che di molti ascoltatori che ci chiamano in questi giorni è questo. Sono gli stessi ascoltatori che hanno consentito nel 92 che si distruggessero i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia. L'Italia era la quinta potenza economica mondiale, che hanno distrutto un'intera classe dirigente e, ripeto, il meccanismo attraverso il quale si selezionava. Detto questo, posso un secondo tornare al punto? Sì. Se le prove contro l'onorevole Papa erano così schiaccianti, uno può pensare che possa reiterare il reato? Qualcuno può pensare che un uomo con due figli scappi? Qualcuno può pensare che possa inquinare le prove? Cioè i tre motivi per i quali l'arresto deve essere fatto. Quindi lei dice quindi non c'erano questi motivi. È un voto politico. Beh, ma è la richiesta di arresto è politica da parte della procura anche o è il voto politico? Ma nessuno di queste tre possibilità possono riguardare l'onorevole Papa. Raccontiamoci le cose come stanno. Si vede che verrà, non so, scarcerato se ci saranno gli interrogatori di garanzia. Poi. Ma non è mai successo. Penso all'onorevole Mannino, 23 mesi di carcerazione preventiva, penso ai tanti carcerati preventivamente, quasi il 40% della popolazione carceraria, di cui la metà vengono scagionati, ma dopo mesi se non anni di carcerazione preventiva. Allora, penso all'onorevole Mercadante in Sicilia, penso a Bruno Contrada, penso a tanti. Onorevole Donadi, è un voto politico perché non c'erano le tre condizioni che sussistono per l'arresto, dice Stefania Craxi. Non è che ci devono essere tutte e tre, bastava che ce ne fosse una. Sì, certo. Che Papa stesse cercando di inquinare le prove già era negli atti inviati dalla procura. Vorrei dire due cose di replica a quanto appena affermato l'onorevole Craxi. La prima, che nel 92 sono caduti i principali partiti che sì avevano nei decenni precedenti contribuito a far grande l'Italia, ma che tra gli anni 80 e 90 hanno contribuito a creare quel debito pubblico immenso che ha pregiudicato il futuro di almeno due generazioni di italiani e che ancora noi oggi stiamo tutti pagando, con la loro disonestà, con la loro corruzione, con logiche politiche clientelari che hanno, a partire dai pensionamenti baby, a partire da assunzioni a botte di centinaia di migliaia di persone alle poste, piuttosto che in tutti gli altri carrozzoni pubblici, hanno affossato l'Italia. Quindi ben venga che quei cinque partiti e i loro dirigenti se ne siano purtroppo non andati a casa, perché molti sono riciclati. È una lettura ben divergente, onorevole Craxi. Disonesto, mi scusi, sarei il capo dell'onorevole Donati che prendeva quei soldi in contanti nelle scatole di scarpe, tanto per cominciare, disonesto, ecco. Ce l'ha con Di Pietro. Dopodiché il debito pubblico si forma negli anni 70, negli anni 80 sotto il governo di Craxi il debito pubblico subisce una frenata, perché è vero che si alza, ma in virtù dei tassi di interesse che erano al 20%, dato il tasso di inflazione altissimo, e perché negli anni 80 vanno a regime due decisioni prese negli anni 70, il sistema delle regioni e il sistema sanitario nazionale. Quindi non facciamo della mistificazione storica, per gentilezza. Però sia stato abbattuto un sistema perfetto, o comunque che andava bene nel 92, andava riformato. I danni di quel 92 li stiamo pagando oggi. Oscar, qui siamo entrati in una lettura anche che ci riaffonda nel passato. A maggior ragione, insomma, la storia non si ripete mai, come dici, allo stesso modo, però vedi che però le analogie, anche le persone raccolgono, i mezzi di informazione raccolgono quel clima. Antonio Polito, tra l'altro Antonio Polito dice da Chiesa, da Mario Chiesa a Alfonso Papa, da Chiesa a Papa, i mezzi di informazione fanno il mestiere, però i mezzi di informazione poi da questo punto di vista pensano sempre che da questo genere di attenzione si guadagnino copie, ma io questo non credo. Sto semplicemente dicendo che ho l'impressione, per esempio, che in ciò che ha indotto i parlamentari leghisti a la decisione di ieri, Conti più anche l'insoddisfazione per la manovra che c'è in loro, il fatto che dicono qua si ripristina l'IRPEF a prima casa, sugli stessi giornali di oggi troviamo i parlamentari leghisti gli stessi che dicono noi non siamo disponibili e così via, quello che prevale in me è il rammarico che vicende personali giudiziarie vengano giudicate, ma in base a criteri che sono quelli di una maggioranza che non tiene più, questo è il punto, non tiene più. Lo chiederai anche, perché tu hai ospite oggi tra ospite poco, il ministro Galan, ovviamente con ministro lui faremo culturale, si parlerà anche di questo, certo. Tra poco alle 9 con Oscar Giannino. Io allora ringrazio l'onorevole Massimo Donati, capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, e il sottosegretario agli esteri onorevole Stefania Craxi del Popolo della Libertà per essere stati con noi su 24 Mattino, nostra pagina Facebook. Continuiamo, scriveteci anche 24 Mattino e radio24.it. e allora cedo il microfono a Oscar Giannino col ministro e beni culturali Giancarlo Galan, tra poco ospite. Noi ci sentiamo domani alle 7:20. Ma lo Stato ladro, quando lo arrestiamo? È lo Stato ladro, chi lo sa?